vogliamo insieme continuare ad avventurarci nello studio di questa lettera così speciale che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa a Filippi. Avete il vostro fogliettino per gli appunti? Perfetto. Io cercherò, non prendetemi un po' troppo come maestro quando vi dirò, stai scrivendo? Appuntati questa cosa. Però in realtà è entrare un po' in questa logica. Io per potermi preparare a questo messaggio, sapete cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prendere gli appunti del messaggio di domenica mattina scorsa, di domenica sera scorsa. Ho rivisto quegli appunti e poi ho detto, ok, ora so come potermi preparare insieme a Dio per il messaggio di questa domenica. Ecco l'importanza di scrivere, perché non è che siamo a scuola e dobbiamo prendere necessariamente gli appunti, ma è proprio un modo per poter, ce l'ha spiegato bene anche il pastore, fare entrare in noi tanti di quei concetti, di quelle verità, perché non sono concetti poi, sono verità, parola di Dio, che un po' ci sfuggono, specie quando Luigi poi parla veloce, bla bla bla bla bla, che cosa ha detto, ci siamo persi. Scrivendole le cose, leggendole, scrivendole, ti rimarranno molto più impresse e le potrai anche riflettere in maniera migliore anche quando sei a casa. Leggiamo subito quindi i versi di questa mattina. Filippesi 1, i versi dal 9 all'11. È l'Apostolo Paolo che dice: «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». Noi qua ora già ce ne potremmo andare, perché è stato molto chiaro l'Apostolo Paolo, non è uno di quei versi, dici, ma che cosa sta dicendo? A volte succede, dice, ma che cosa, ma qual è il senso? Qui il senso credo che sia chiarissimo. Però ci troviamo, ragazzi, cerchiamo di capire meglio che cosa l'Apostolo Paolo stava dicendo a quella chiesa, ma in realtà cosa Dio sta dicendo a me e a te oggi. Perché attenzione, non è qualcosa che si riferisce ad un tempo storico, ad una società in maniera particolare, ad una città particolare. La parola di Dio poi ha l'universalità, cioè il fatto di essere vera oggi, qui, al presente, in questo istante, per me e per te. Io mi sono immaginato l'Apostolo Paolo, che insomma, quando stava cominciando a scrivere questa lettera, che si è fermato un attimo e ha detto, voglio fare una preghiera per questa chiesa. Che cosa posso pregare? Posso pregare che tutti stiano bene di salute. Poi ho detto, no, forse è meglio se prego che tutti abbiano un lavoro. Oppure poi ho detto, no, è meglio forse che prego che tutti diventino dei missionari, come me, Apostolo Paolo, quindi apostolo alle nazioni. E credo che lì lo Spirito Santo gli ha detto, no, aspetta, ferma, è giusto che preghiamo per tutto questo, per i bisogni, per le necessità, per le situazioni, ma lo Spirito Santo, secondo me, ha detto all'Apostolo Paolo, incominciamo a pregare dalla cosa più importante che c'è, cioè la cosa prioritaria, e io voglio che questo entri da subito nella nostra testa. Dio ha rivelato all'Apostolo Paolo e ha rivelato a me e a te oggi, questa mattina, che la cosa più prioritaria che noi possiamo pregare l'uno per l'altro e per la Chiesa è che la Chiesa cresca. Prendi appunti. La nostra priorità è pregare per la crescita della Chiesa, che sia una crescita numerica, perché questo poi significa che nuove persone vengano alla salvezza, ma che sia anche una crescita spirituale, quella che è definita la maturità spirituale, ed è di questo poi in maniera specifica che parleremo stamattina, perché l'Apostolo Paolo sta parlando proprio della maturità spirituale. Capiremo un po' che cosa è già scritto in quei versi, per qualcuno che vuole già andare alle conclusioni, può andare già nel verso di che abbiamo letto, già si comprende che cos'è la maturità spirituale, ma voglio fare un percorso con voi. Siamo nella società degli integratori quelli alimentari. La ricerca scientifica medica ha capito che prendere le vitamine, prendere gli aminoacidi e prendere i sali minerali, e poi ci sono integratori oramai per ogni singolo problema noi abbiamo. I medici sono diventati molto bravi, non faccio nomi, ma forse fra di noi qua ci sono persone che io so che li hanno provati tutti gli integratori e continuano a prendere, perché ogni volta che vanno dal medico, il medico gli dice: prendi questo integratore, prendi questo integratore, prendi in questo integratore. Faccio giusto una battuta, non li vedo, non so se ci sono meno. Il marito poi ha detto alla moglie: per fortuna che non paghiamo l'affitto, perché i soldi la casa di proprietà, che i soldi li diamo per integratori, perché poi gli integratori costano. L'apostolo Paolo oggi me lo so visto così, col potere dei social, col potere delle promozioni in TV, insomma delle pubblicità, con questo sfondo. Chiedo scusa per la grafica improvvisata, Vito, è una cosa, non trovavo applicazioni gratuita, diciamo quelli a pagamento serie per fare il mock-up lì con la scatola perfetta, costavano troppo, insomma, qui ho fatto una cosa un po' più artigianale, però pensate un po' l'apostolo Paolo in TV, sui social, così. Vuoi essere limpido? Vuoi essere irreprensibile? Vuoi essere ricolmo di frutti di giustizia? Assumi una sempre più alta dose dell'amore di Dio, così da apprezzare le cose migliori per una vita che dia gloria soltanto a Lui. Amor Dei per la tua vitalità spirituale. E poi sulla confezione compare scritto: assumere con conoscenza e discernimento. È seria questa cosa, è seria, per quanto possa sembrare da ridere. Ma io mi sono visto l'apostolo Paolo oggi e noi dobbiamo farlo. Cioè, prendiamo questo spot, realizziamolo, pastore, vediamo di realizzare uno spot e lo mandiamo. Ci inventiamo l'integratore per eccellenza, Amor Dei. I ragazzi, gli upside down verranno tutti stasera, diranno: ah, il solito latinista. Però, insomma, Dei suona con dei giorni in inglese, perché in genere gli integratori hanno sempre Dei da qualche parte scritto. L'amore di Dio in latino, c'è scritto lì. I ragazzi: ma il solito latinista, vecchio, sono vecchio io. Mettiamo a frutto, insomma, gli studi fatti di latino. È un integratore, l'amore di Dio per noi, giorno per giorno, è l'integratore di cui noi abbiamo bisogno se vogliamo essere persone mature spiritualmente. Cioè, se vogliamo crescere bene spiritualmente parlando, dobbiamo prendere questo integratore. Senza questo integratore andremo in deficit e sarà molto difficile poter crescere realmente forti, vitali, vigorosi nell'amore, nella grazia, nel perdono, nella consacrazione, e così potrei continuare. Se pensate all'immagine stessa che abbiamo della nostra serie, Filippesi, c'è questo uomo lì sportivo. Filippesi incita proprio, arriveremo poi a parlare chiaramente nello studio dell'epistola ai Filippesi, parla di vigore fisico, in parte, parla di vigore spirituale, sì, sì, è così, c'è un vigore spirituale e non importa l'età anagrafica, non importa da quanto tempo tu conosci Gesù. Lo sentivamo domenica mattina scorsa, Efesini 4:13. Noi tutti siamo chiamati a continuare a crescere, a che cosa? All'altezza della statura perfetta di Cristo. Tutti, e non solo chi incomincia oggi magari un percorso con Gesù. Anche Luigi, che è una vita, insomma. Io dico sempre, avevo 2 anni quando mia mamma e papà hanno conosciuto Gesù, quindi sono 43 anni quasi che io conosco Gesù in qualche modo. E io voglio continuare a crescere, ma tantissimo. Ma sapete perché? Non perché è una pretesa, un'aspettativa, no, perché Dio vuole. Cioè Lui l'ha scelto, l'ha decretato per me e per te, che noi potessimo crescere in questo percorso sulla terra per arrivare ad un'altezza, una statura. Quindi pensate proprio grandi, i bambini che vogliono diventare adulti grandi, e oggi parleremo proprio di essere degli adulti cristiani spiritualmente parlando, e dire: hai fatto tutto quello che c'era da fare, hai preso tutta l'integrazione che io, Dio Padre, avevo preparato per te affinché tu potessi vivere quella vita piena, abbondante, eccellente, capiremo oggi. Torniamo ai 3 versi di Filippesi. 3 sono le verità che emergono da da questi tre versetti. La prima verità assoluta, sempre valida, che dobbiamo sempre avere nella nostra testa. Io un po', ve l'ho detto, chi mi ha già sentito dire questa cosa, sono un po' in fissa. Cerco di mettere sempre, oramai, questa frase, perché poi è verità, ovunque, perché la parola lo ricorda costantemente. Il primo punto è che Dio prende gloria quando la nostra vita è un'evidenza dell'opera del suo amore in noi. Io e te ci troviamo qui stamattina perché Dio deve prendere gloria. Io e te abbiamo la speranza di poter pensare di crescere spiritualmente parlando perché Dio deve prendere gloria. Ma io vado ancora più all'origine. Sono stato chiamato ad essere figlio di Dio perché Dio prenda gloria. È scritto, appuntati questo, non c'è lì sopra, Efesini 1, versi 5 e 6, quindi Efesini 1, 5 e 6 dice che per amore di Dio Padre, tramite Gesù Cristo, noi siamo stati adottati ad essere figli di Dio affinché Lui potesse prendere gloria. Fidatevi, l'ho parafrasato, ma è proprio scritto così. Quindi poi quando vai a casa lo vai a leggere per bene, Efesini 1, 5 e 6. Quindi questo concetto del fatto che io sono figlio e Dio prende gloria è fondamentale, prioritario, ce lo dobbiamo mettere in testa, perché con questa prospettiva noi riusciamo bene a comprendere il perché poi Dio vuole che noi potessimo e possiamo crescere spiritualmente parlando. Vi voglio proprio semplificare la cosa, ma è proprio una semplificazione, quindi non limitiamo a questo. Facciamo un esempio naturale, un papà, il pastore che è diventato papà, ok, perfetto. Cioè papà che è nato, l'ultimo papà, che ne avremo tanti ancora di papà che prossimi, però oggi è il papà del momento. Lui oggi, papà da 2 giorni quasi. Ci siamo. Da 48 ore papà. Ha probabilmente già in mente tutto quello che dovrà insegnare a sua figlia, tutto quello che le dovrà dire, tutto quello che le dovrà mostrare, tutto quello che le dovrà proprio far vivere affinché la bambina poi cresca, nella prospettiva già che sia un certo tipo di adulto. E poi, fra 20 anni, 25 anni, magari lui da qui dirà niente da come, ma bugia, niente è andato come volevo, no bugia, assolutamente. Quello che ho insegnato a mia figlia è stato più di quello che io potevo pensare, perché Dio ha potenziato, ma voi insieme a me, dirà il pastore, potete vedere l'opera che Dio ha fatto in questa persona, e io papà, perché no, dirà sono felice, sono anche onorato di aver avuto la bellezza, la possibilità di poter tirare su un figlio, una figlia, oggi adulta, in questo determinato modo. Soprattutto la cosa più bella, sapete quale sarà? Vedere che quella persona ora adulta metterà, incomincerà a mettere in pratica tutto quello che le è stato insegnato, detto, mostrato, con amore, per l'amore ricevuto. E lì tutti quanti noi diremo bravo papà pastore, hai fatto un ottimo lavoro. Ora prendete questo esempio umano, fatelo crescere in una maniera spropositata. Questo è Dio Padre che guarda a noi figli e dice quanto sono felice, quanto sono onorato, che bello che Antonio sia felice di come Dio Padre stia facendo crescere Nico. La gioia è anche, come dire, contagiosa. Abbiamo sentito domenica scorsa che dobbiamo pregare con gioia, ma questo è anche pregare per la crescita dell'altro. Questo deve metterci gioia, deve motivarci proprio ad andare oltre, credendo che Dio prende gloria attraverso le nostre vite imperfette, sballate, confusionarie. Però anche qui c'è la soluzione e andiamo proprio alla soluzione. Punto numero 2, la maturità spirituale la si riconosce nel saper apprezzare il meglio che Dio ha per noi. C'è questo principio spirituale dato da Gesù, Matteo 6,33, che dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi verranno date in aggiunta. Ora, tutte queste cose, ipotizzatele come tutte le cose che noi riteniamo importanti nella nostra vita. La famiglia, il lavoro, la salute, le relazioni, e non lo so, qualsiasi altra cosa per te sia importante, necessaria, a volte anche urgente nella vita, Dio lo sa benissimo. Dio non sta dicendo, queste sono cose da poco. Dio sa quanto siano importanti tutte queste cose, ma il principio spirituale è: per te è importante la famiglia? Ok, cerca prima me Dio. Per te è importante il lavoro? Ok, perfetto, sono d'accordo con te, ma cerca prima me Dio. E poi, per te è importante la salute? Ok, comprendo benissimo, dice Dio, ma cerca prima me Dio. Perché questo? Perché in questa maniera Dio sta aprendo i nostri occhi alle cose migliori. E le cose migliori per noi umani, almeno fino a che siamo umani, si rivelano nelle cose della nostra vita. È straordinario, credo, poter scoprire che il proprio stato di salute sia una rivelazione della misericordia di Dio, che il proprio lavoro sia una rivelazione della grazia di Dio, che la propria famiglia sia una conquista della grazia di Dio. Questo è il principio fondamentale per poter proprio diventare adulti, spiritualmente parlando, non più per quello che io chiedo nell'urgenza a Dio, e Dio Padre è ben felice di potermi aiutare, ma lui mi dice: vuoi diventare una persona adulta spiritualmente parlando? Cerca prima me, cerca prima me, stai prima con me. E perché questo? Perché in quella maniera noi possiamo prendere l'integratore. Perché se non andiamo a cercare prima Dio, ci prenderemo altri integratori, che può essere la mia forza di volontà, che può essere il mio autocontrollo, che può essere il consiglio utile e valido di qualcuno, che può essere tante altre cose, forse anche buone, ma che non hanno l'efficacia di poter creare in noi quella vitalità spirituale di cui abbiamo bisogno. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: abbondi in voi, cioè abbondi, deve essere sempre di più. Non possiamo pensare che l'amore di Dio lo abbiamo conosciuto e compreso tutto. E cerchiamo ora di entrare in questo aspetto, che forse è la cosa un po' più... Ma che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo di questi versi? Perché lui dice: abbondi in conoscenza e discernimento. Punto numero 3. Per diventare cristiani adulti, dobbiamo diventare maggiormente consapevoli. L'Apostolo Paolo qui sta dicendo che si tratta di crescere nella conoscenza, nel discernimento dell'amore di Dio per noi. Che cos'è la conoscenza? Non è capire, o meglio, non è solo capire. Perché quando io capisco, la capisco qui, intellettivamente parlando, nella mia testa, io ho capito che Dio ci ama, anzi, che Dio ama il mondo. Ci siamo tutti su questa verità? Che Dio ama il mondo? L'abbiamo capita questa cosa? Perfetto. Ora, qui l'Apostolo Paolo non ha detto affinché capiate, no, affinché conosciate. Cos'è la conoscenza? È la mia riflessione che si unisce alla mia volontà, tanto da poter trasformare i miei valori interiori, le mie priorità, le mie motivazioni, le mie aspettative, e da dentro la mia esperienza di vita cambia. E da dentro a fuori. Noi molte volte cerchiamo di cambiare le cose fuori. Io non voglio peccare più, io non voglio essere più scontroso con gli altri, io vorrei leggere e pregare di più. E quindi cerchiamo di trovare stratagemmi per poter cambiare le cose. Ma se non sono cambiato dentro, sarà costantemente, e sarà estenuante come battaglia, la battaglia ci sarà sempre, ma sarà troppo estenuante e troppe volte andremo a perderla questa battaglia. Perché? Perché non stiamo utilizzando la via per eccellenza per poter vincere questa battaglia, cioè riempirci della rivelazione dell'amore di Dio in noi. E poi c'è anche discernimento. In questo caso discernimento è utilizzato come saper distinguere ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Io credo che tutti quanti voi possiate a turno salire qui su questo palco, per dire, come se fosse, insomma, un posto da dove poter dire qualcosa, e possiate cominciare a dire: questo è giusto, questo non è giusto, questo è giusto, questo non è giusto. ma quello è una piccola parte del discernimento. E discernimento qui inteso dall'Apostolo Paolo è conoscitivo, io conosco ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ma è anche applicativo, io faccio ciò che è giusto. Quindi conosco ciò che è giusto, faccio ciò che è giusto. Ecco perché poi dice, in questa maniera diventerete limpidi, irreprensibili, pieni di frutti di giustizia. Riassumiamo tutto quanto così. Ogni giorno noi siamo costantemente sottoposti ad una battaglia. La nostra volontà contro la volontà di Dio. E a volte sembra davvero che Dio ci sia contro. No, questa volta no, scusami se ti... No, Dio non è contro di noi, assolutamente. Dio non è contro di noi. Però a volte la sentiamo, quello scontro. Perché? Perché lui ci sta chiamando a qualcosa di tanto alto, di così tanto rivelatorio della grazia sua, dell'amore suo, che davvero la nostra natura umana va in contrasto contro tutto questo. Perché sopravanza la nostra conoscenza, sopravanza le nostre aspettative, l'eternità ci lascia con le spalle al muro, e a volte è davvero così tanto grande da poter dire, beh, forse è meglio se io mi accontento delle situazioni come stanno oggi. Questa è la vita. No, noi siamo chiamati a diventare limpidi, cioè non inquinati dalle cose di questo mondo. Noi siamo chiamati a diventare irreprensibili, cioè coerenti alla vita cristiana, non con una doppia vita. Noi siamo chiamati ad avere frutti di giustizia, che ha a che fare con la santità di Dio, e poiché Lui è santo, noi siamo chiamati ad essere santi. Ma tutto questo non può assolutamente essere raggiunto se non in un'unica sola maniera, quella che l'Apostolo Paolo ai Corinzi ha chiamato la via per eccellenza, l'amore, l'amore di Dio. E togliamoci dalla testa che questo amore sia l'amore sentimentale, l'amore emotivo, non è di questo. È quell'amore, prendi appunto di questa frase, che è a fondamento del patto che Dio ha fatto con noi e che noi abbiamo fatto con Lui. Dio ha fatto un patto e lo ha fatto per amore, dicendo: io ti perdono tutti i peccati, io ti condono la colpa e ti do la vita eterna, e faccio questo perché ti amo. E dall'altra parte noi abbiamo detto, perché i patti almeno prevedono due persone, quindi dall'altra parte poi ci siamo noi, e noi abbiamo detto: ok Dio, sì, mi piace questo patto. E noi abbiamo fatto la nostra parte in questo patto. Come? Abbiamo detto: io ci sto dentro questo patto, io voglio sottomettermi a questo patto, io voglio onorare questo patto, io voglio riconoscere il valore di questo patto che stiamo facendo io e te, Dio. Questo è ciò che dobbiamo costantemente ripescare giorno per giorno. Riconosci l'amore che c'è a fondamento del patto che Dio ha fatto con te, e onora quell'amore. Dì a Gesù di potertelo rivelare ancora e ancora e ancora. Perché più comprendo e più sperimento il suo amore, e più approverò l'eccellenza della vita in Cristo. La vita in Cristo è una vita eccellente, è una vita di eccellenza. E come lo posso vivere questa eccellenza? Comprendendo quanto Dio mi ama. Comprendendo quanto è forte quell'amore, comprendendo quali sono i risvolti che deve avere sulla mia vita. Lascia che l'amore di Dio possa riempire ancora, costantemente, giorno per giorno, non arrivare alla presunzione di poter dire, beh, credo di aver compreso tutto quanto l'amore di Dio. Perché sapete, c'è scritto nella Bibbia che l'amore è ciò che durerà per sempre. Voi immaginate che noi per l'eternità continueremo a scoprire l'amore di Dio. Perché l'ho pensato così, non so se la nostra testa funzionerà ancora in questa maniera, ma io mi sono pensato nell'eternità, ogni istante a dire a me stesso: sei qui perché Dio ti ha amato, sei qui perché Dio ti ha amato, sei qui perché Dio ti ha amato. Noi continueremo a riconoscere e a parlare dell'amore di Dio per l'eternità. Non sarà mai possibile poterlo comprendere, quindi perché dobbiamo fermarci su questa terra? termino con questo verso, Ebrei 5,14. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. I cristiani adulti, prendi questo appunto, hanno la buona abitudine di scegliere Gesù ogni giorno e di praticare la vita in Lui. E praticando la vita in Lui che noi possiamo davvero vivere la vita eccellente che Lui ha pensato per ognuno di noi. Se ameremo l'eccelso, Dio, inevitabilmente incominceremo ad apprezzare le cose eccellenti. È un adulto, è un intenditore. Se voi pensate a un adulto in genere, è un intenditore, è uno che ha sviluppato saggezza, che sa riconoscere ciò che è buono da ciò che non è buono, ciò che ha realmente valore. È qualcuno che ha fatto esperienza. Stiamo facendo esperienza dell'amore di Dio nelle nostre vite? Oggi, ora, in questo istante, vogliamo fare esperienza dell'amore di Dio. Perché adesso, che può anche succedere, deve succedere ogni singolo momento, ma questo è un momento speciale perché siamo insieme come chiesa e quindi non potrai mai avere a casa tua tutte queste persone, almeno, non lo so. In genere in questo momento dell'incontro il predicatore fa una preghiera, è vero? La ricordate questo passaggio in genere? Oggi il predicatore non prega. Perché pregherai tu? Ci invito davvero ad andare a la persona che ti sta a fianco, a cercare una persona intenzionalmente e a pregare una preghiera simile a quella che l'Apostolo Paolo ha fatto per noi e sulla Chiesa a Filippi, sul tuo fratello, sulla tua sorella. Prega che ci possa essere una nuova rivelazione dell'amore di Dio e che sia questo a sbaragliare ogni bugia del diavolo, a tirare fuori ogni superficialità, a cambiare le priorità nella nostra vita, a ridare senso alle cose, il senso reale delle cose secondo gli occhi di Dio. Prega con autorità questa preghiera per tuo fratello, per tua sorella, perché il nome di Gesù è potente, lo abbiamo cantato, ed è per quel nome che noi possiamo credere nel miracolo della rivelazione ancora una volta della potenza, della grandezza, della meraviglia, dell'amore di Gesù per te e per me. Questo è tutto, questo è il tutto. Ed è da qui che si può pensare di poter continuare nella nostra crescita. Ci alziamo. E senza perdere troppo tempo, perché non abbiamo troppo tempo, vai, vai al tuo fratello, vai alla tua sorella e pregate reciprocamente. Puoi fare anche un paio di preghiere, se sei veloce puoi benedire anche un paio di persone.